La scrittrice Barbara Alberti ha scelto l'esilio. Era da tempo nota la sua decisione di ritirarsi dal mondo. Vive nel faro di Capo Finisterre, all'estremo occidente della Spagna. Da questo luogo, l'esule Barbara Alberti continuerà a tenere vivo il contatto con le donne che la interpellano per consigli in questione di cuore e qualche suo raro amico. Шарманка, шарлатанка, как сладко ты поёшь. La guardiana del faro. Шарманка, шарлатанка, куда меня зовёшь. Voci e pensieri per Barbara Alberti. Шагаю еле-еле. Siamo rincorsi dalle ricorrenze e fra poco è l'8 marzo. A che punto è la donna, no? Si chiedono tutti. Ma io credo, nonostante tutto, a un punto fortunato, perché è ancora esaltata dalla sua libertà nuovissima e incompleta e quindi in possesso di qualche superfacoltà. Per l'8 marzo mi viene in mente soprattutto il verso di Pasolini dalla postilla in versi alle lettere luterane. Sciopero, sciopero compagne, per i nostri doveri. Lui naturalmente si riferisce ai ragazzini, io mi riferisco alle donne. Il nostro dovere primo credo sia esercitare il libero arbitrio. Spesso ho detto che noi donne stiamo raggiungendo la parità col maschio nella volgarità. Ecco, per fare un esempio di questo, mi ricordo, non so più se va di moda adesso, ma una mia giovane amica mi aveva detto: ah, la tale si sposa, fa una festa con le amiche, e mi trovo nel bel mezzo di una festa d'addio al nubilato. Farà la sposa e le sue amiche, tutte giovani e graziose, ed ecco, d'un tratto, arriva la torta, cioè una specie di bara su ruote, si scoperchia, e chi ne esce? Scappa fuori dalla torta un vecchione di 40 anni. Vecchio per il suo mestiere, voglio dire, super abbronzato, orecchini. Poveraccio, saltava sul tavolo col suo tanga in un'allegria da tomba, inadatto al mestiere, tatuato a serpenti, spavaldo ma vergognoso, e si mette a saltare sul tavolo tra i piatti di pasta asciutta. Che vergogna, no, che vergogna di essere lì, di non potersi dissolvere in un soffio. Guardare questo povero marchettone. Fosse stato uno sfacciato, spiritoso, con un briciolo di vera allegria, credo sarebbe andata meglio. Invece era patetico, e noi più di lui. Gelo, imbarazzo, false, tremende risate. La sposa è scoppiata a piangere. Non siamo ancora così cinicamente barbariche perché un gruppo di femmine si possa sinceramente divertire davanti a questo maschio spaesato e nudo che danza, disgraziato, che fa finta di offrirsi, ma ci ha dipinto in faccia che è dubbiosissimo del suo scettro sbeffeggiato, pagato per divertire. Ma perché noi copiamo sempre gli usi più disgustosi dei maschi? E poi il brutto è che dopo queste feste gli sposi si sposano veramente, dopo questa festa simboleggiante l'ultima orgia prima della normalità. Mi posso immaginare come sarà abominevole questa normalità se persino la pantomima della sua trasgressione è così triste. Sono già caduta nella trappola dell'8 marzo. Subito ho cominciato col piagnisteo, con la cosa brutta, con la festa nubilato. Invece no, basta con i piagnistei, anche se ci sarebbe di che, visto anche il prezzo esorbitante che pagheremo noi donne per questa crisi. Ma potrei anche argomentarlo, ma un'altra volta. Io vorrei festeggiare l'8 marzo ricordando la più luminosa delle disobbedienti, Giovanna d'Arco, la quale ai giudici che hanno il potere di mandarla a rogo, e ce la manderanno, risponde dunque alla domanda: cosa vi dissero le voci? Di rispondervi arditamente. Strani i nomi dei suoi principali nemici. Il vescovo Pierre Cauchon, che si scrive Cauchon, ma si pronuncia come porco, e il cardinale di Winchester, come un fucile che spara. Fisicamente Giovanna d'Arco me la immagino un po' con la faccia di Sabina Guzzanti, pienotta, impenetrabile, con gli occhi pazzi e sereni a un tempo sulla sua visione. Oppure anche come Mila Jovovich, la protagonista della Giovanna d'Arco di Besson. Un film di grande effetto, però tutto esteriore, Ma allora preferisco il film di Fleming con una bellissima Ingrid Bergman di 18 anni, oleografico, ma un magnifico santino. E se devo immaginarla oggi, me la immagino con le scarpe tutte consumate. Per forza, perché sono 500 anni ha camminato negli intorni del paradiso. Tanto ci hanno messo a farla santa e intanto non sapevano dove sistemarla. Perseguitata prima e dopo, anche se è stato un bene che ci abbiano messo tanto, perché così ha mantenuto la virginità nel senso più profondo ed è passata nel tempo come leggenda, più che come santa, essendo una martire della Chiesa, non per la Chiesa. E si è salvata dalle speculazioni, non hanno mai fatto collette in suo nome, non l'hanno usata come frate Francesco per accumulare dei tesori in suo nome. Certo, viene da indignarsi per il ritardo della Chiesa, però, se ci pensiamo bene, farla santa era un passo molto grave. Significava implicitamente condannare la Chiesa. E più che scandalizzarmi, rifletto, nessun regime glorifica volentieri le sue vittime. E poi, come può un'istituzione serbare la religione? Questo spetta a pochi ribelli. Fuori dell'eresia non c'è santità. E la grande eresia di Giovanna è stata non riconoscere l'autorità dei suoi giudici e pretendere di avere un rapporto diretto con Dio, quasi 100 anni prima di Lutero. E per affermare questo rapporto personale con Dio nel quale nessuno deve entrare, lei lo rende indelebile affrontando il rogo. Giovanna era una ragazzina, una pastorella che cuciva, filava, tesseva, anzi durante il processo si vanterà, dice: per tessere e filare non temo nessun'altra donna, ad Domremy, il paese dove è nata. Quello che sto per leggere è tratto dal libro Il Medioevo di Jules Michelet, questo grande innamorato delle streghe, il quale scrive: l'originalità della pulzella non fu tanto nel suo valore o nelle sue visioni, fu nel suo buon senso. Attraverso il suo entusiasmo, questa ragazza del popolo vide la questione e seppe risolverla. La sua originalità, secondo Michelet, non è stata neanche il fatto di aver combattuto a fianco dei soldati, perché, scrive, non era raro vedere delle donne prendere le armi. Combattevano spesso durante gli assedi. L'originalità della pulzella non fu nemmeno nelle sue visioni. Chi non ne aveva nel Medioevo? L'eccesso delle sofferenze aveva singolarmente esaltato gli spiriti. Giovanna non sapeva né leggere né scrivere, ma sapeva tutto delle cose sante. Per lei la religione non era una lezione, neanche una cerimonia. La ricevette in una forma popolare e ingenua, come una bella storia di veglia, come una cosa viva, la vita stessa. E poi, secondo Michelet, lei era soprattutto una creatrice. La ragazza, a sua insaputa, creava e realizzava le proprie idee, ne faceva degli esseri, comunicava con loro, in una splendida e onnipotente esistenza da fare impallidire le misere realtà di questo mondo. La guardiana del faro. Stavamo parlando di Giovanna d'Arco e magari forse occorre qualche cenno storico. Giovanna d'Arco nasce nel 1412. Quando lei ha 10 anni, nel 1422, è in corso la guerra dei 100 anni, nella sua fase finale. Siamo in Francia. Nel 1422 è stato fatto il Trattato di Troyes, con cui la corona inglese si impadronisce della corona di Francia, ovvero diventa la padrona di Francia. La cosa ovviamente controversa, l'erede di re di Francia, Carlo VII, ha una discendenza di cui dubita lui stesso. Ed è stato incoronato, ma è stato incoronato a Poitiers, e questo non vale niente, perché un vero re di Francia, per essere consacrato, deve essere incoronato a Reims, dove c'è la sacra ampolla, e quindi deve essere unto ben bene. Questo re da burla non ha nessun potere sulle sue truppe, perché non ha neanche mezzi economici. Occorrerebbe un eroe, un liberatore. Ed ecco che un giorno esce fuori questa pastorella, ispirata da Santa Margherita, Santa Caterina e dall'Arcangelo Michele, la quale dice di essere stata inviata per incoronare il re, e soprattutto le voci le hanno detto di liberare Orléans dall'assedio degli inglesi. E tutto questo lei lo farà. Libererà Orléans, farà incoronare il re a Reims e terrorizzerà gli inglesi, che naturalmente la detestano. E poi, dopo una storia che adesso racconteremo, sarà tradita dallo stesso re. Sarà processata dai dottori della Chiesa e sarà mandata al rogo. Ask me how I knew. my true love was true. Ora vediamo come ne parla il Michelet, questo grande innamorato delle streghe, nel suo libro Il Medioevo. Siamo nell'ultima fase della guerra di 100 anni. Giovanna conosce la guerra, conosce il saccheggio, conosce lo stupro, l'incendio e capisce che la guerra è anticristiana. Ha orrore di questo regno del diavolo, dove gli uomini muoiono tutti in peccato mortale. E si domanda se Dio non metterà fine a queste miserie e se non invierà un liberatore come l'aveva fatto per Israele, se non manderà un Gedeone, una Giudit. Lei sapeva che più di una donna aveva salvato il popolo di Dio e che all'inizio era stata la donna a schiacciare la testa del serpente. Chi è Giovanna? Giovanna è questa pastorella, appunto, che bada alle bestie, rigoverna la casa e poi un giorno a 13 anni comincia a sentire le voci. Vede un grande chiarore. E chi sono? Sente le voci di Santa Caterina e Santa Margherita, e poi vedrà anche l'Arcangelo Gabriele, che le rivelano che le è stata affidata una missione. Giovanna, corri al soccorso del re di Francia. Tu devi restituirgli il suo reame. Immaginiamoci questa pastorella che, tutta tremante, risponde: ma signore, io non sono che una povera ragazza. Io non saprei cavalcare. E la voce rispose: tu andrai a trovare Monsieur de Baudricourt, capitano di Vaucouleurs, e lui ti condurrà dal re. Santa Caterina e Santa Margherita verranno ad assisterti. Lei è una ragazza destinata al matrimonio, e anzi già ne ha rifiutato uno, perché era fidanzata e poi è stata trascinata in tribunale perché all'ultimo momento ha detto no, io non mi sposerò. E già i suoi genitori sono piuttosto arrabbiati con lei, e suo padre sogna sempre che lei andrà via con dei soldati, e dice ai fratelli: se la cosa che ho sognato accadesse veramente, vorrei che voi la annegaste. E se voi non voleste farlo, lo farei io stesso. Ancora non si è mossa da casa e già è stata condannata alla morte attraverso l'acqua. Con l'acqua o col fuoco. Molto presto, anche quelli che le vogliono bene, la vogliono morta. Qui il punto che evidenzia Michelet è molto interessante. L'autorità paterna e l'autorità divina comandano due cose diverse. Il padre comanda che stia a casa ai fili diritta. Il padre celeste vuole che lei se ne vada a condurre gli eserciti. E quindi, commenta Michelet, da qualche parte doveva pur disobbedire. E allora disobbedisce al padre terreno. Come fa una ragazzina di 17 anni a scappare dal suo paese a cavallo? Beh, deve avere un complice in casa. E questo complice sarà suo zio, che si lascerà convincere da lei e la porterà dove hanno indicato le voci, a Vaucouleurs, dal comandante Baudricourt, che lì per lì, quando vede questa contadinella con la sua gonna rossa e blu, che parla di voci, che parla di Dio, non le dà nessuna considerazione. Però poco a poco c'è qualcosa in lei di molto convincente. E le voci le hanno dato anche un tempo. Prima di mezza quaresima bisogna che io mi trovi davanti al re. Dovessi anche andare a piedi e consumarmi le gambe fino alle ginocchia, perché soltanto io posso soccorrerlo, anche se io avrei preferito restare a filare presso mia madre. Questo non è il mio lavoro, però il mio Signore lo vuole. E chi è il vostro Signore? È Dio, dice lei, semplicemente. E allora Baudricourt la porta effettivamente a Chinon, dove si trova il re con la sua corte. Beh, immaginiamo, in questa corte annoiata arriva la contadinella che dice di essere inviata da Dio. Beh, fanno una grande parata, 100 torce, 300 dame e cavalieri, tutta la corte che lo aspettano, pregustando quanto lei sarà impressionata. Invece lei niente. Arriva, in più hanno studiato un piccolo trucco. Il re si mescola agli altri cortigiani e le indicano come il re un altro. E invece lei va dritta verso il re e si inginocchia davanti a lui e gli ripete qual è la sua missione. Aveva una grande autorità questa ragazza, convinceva tutti. Il re, prima di affidarle dei soldati, il re la fa esaminare dai dottori della chiesa di Poitiers. Questo sarà come l'anticipazione del suo processo per stregoneria. Le fanno 1000 domande e tra l'altro le dicono: devi darci un segno che sei inviata da Dio. E lei dice: no, io non sono venuto a Poitiers per dare un segno. Il segno sarà quando toglierò l'assedio da Orléans. Tra l'altro vogliono stabilire se lei sia vergine o no, perché il diavolo non può fare patti con una vergine. E quindi sarà esaminata anche da queste pie dame. E, come scrive Michelet, sarà la suocera del re, la regina di Sicilia, a incaricarsi della ridicola bisogna. E c'è una cosa che incanta sempre in Giovanna: non solo è arguta, non solo è semplice, non solo è di un'intelligenza sorprendente, ma anche non lascia mai il suo senso dell'umorismo. Tra questi dottori della chiesa che la interrogano c'è un certo Seguin del Limusino. Adesso è difficile tradurre in italiano come sia buffo il dialetto del Limusino, però effettivamente ne ridono un po' come noi ridiamo della pronuncia barese in Francia. E quindi questo, nel suo dialetto del Limusino, le dice: com'era, come vi parlano le voci celesti? E lei risponde: meglio di voi. E poi le dicono: credi in Dio? E lei risponde di nuovo: meglio di voi. E comunque, il re, convinto a questo punto e dalla sua verginità e dalle risposte sorprendenti che ha dato il dottore della chiesa, le affida 12.000 armati. E Giovanna si fa confezionare il suo abito da capo. Dice Michelet: fu una meraviglia per gli spettatori vedere la prima volta Giovanna d'Arco nella sua armatura bianca e sul suo bel cavallo nero. La prima notte dorme vestita, potete immaginare cos'era dormire in quel viluppo di metallo, perché teme di essere violentata. Ci proveranno di continuo i nemici, in quanto pensano che violentandola aprono il commercio al diavolo, cioè le vogliono togliere la protezione. E dopo, quando sarà tradita, quando sarà consegnata ai suoi boia, Michelet commenta: quei gentiluomini consegnarono quella che sembrava la cavalleria in persona. Immaginiamo sta ragazza che ha appena imparato ad andare a cavallo. Lei non ci sa andare a cavallo, però ci sale sopra e va. E così saranno tutte le sue azioni. Immaginiamoci da chi si trova circondata. Ebbene, questa ragazza viene seguita, rispettata e obbedita dai suoi compagni d'arme. E che compagni! È anche da dire che lei aveva il cielo dalla sua e si guadagnava la sua autorità in modi come questi. Per esempio, un soldato della capitaneria di Robert de Baudricourt bestemmia e lei con tristezza gli dice: ma come, voi bestemmiate Dio eppure state per andarci? E infatti il pomeriggio quello muore. Il fatto è che lei era un magnifico soldato. Senza essersi occupata d'altro appunto che di galline, di porci, di pecore, dimostra immediatamente una conoscenza stupefacente dei problemi militari ed è anche una grande stratega, tanto che quando effettivamente toglierà l'assedio a Orléans viene acclamata capo e generale sul campo. Anche i suoi compagni erano ringiovaniti. Oh, su questo ringiovaniti che scrive Michelet bisogna pensare che comunque erano tutti ragazzi poco più grandi di lei, cioè avevano da 23 e 28 anni, ma ringiovanire in senso più profondo. Però sono persone che sono macchiate di ogni delitto. Quando parla di questa gioventù parla di una purezza giovanile. Michelet: questi uomini si erano dimenticati e ora si ritrovavano. Si ritrovavano accanto a lei, tutti ragazzi. Con lei cominciò una nuova vita. E qui Michelet ci fa capire la gioia che prorompe da questa ragazza, la gioia, l'entusiasmo, e dice: questi erano pronti a seguirla, dove? Non importava, l'avrebbero seguita, persino a Gerusalemme. Intanto gli inglesi la chiamano Vaccara e Ribalda, oppure anche puttana degli Armagnac. Lei è una cristiana, lei è una donna di pace, e quindi scrive agli inglesi. Lei non sa scrivere, naturalmente, detta a uno scrivano. Prima di entrare in guerra, propone la pace. Re d'Inghilterra, e voi, duca di Bedford, che vi dite reggente del regno di Francia, rendete giustizia al re del cielo e al suo sangue reale. Rendete alla pulsella, inviata da Dio, le chiavi di tutte le città che avete preso e violato in Francia. Ella è qui venuta per volontà di Dio, re del cielo, per reclamare i diritti del sangue reale. E voi, arcieri, guerrieri, gentiluomini, e voi tutti che vi trovate dinanzi alla città d'Orléans, andatevene in nome di Dio nelle vostre contrade. Se così non farete, udrete nuove della pulsella, a vostro gran danno. Re d'Inghilterra, se così non farete, io sono capo di guerra e in qualunque luogo io raggiungo i vostri uomini, farò sì che si sgombrino e se non vogliono obbedire, tutti li farò morire. Io sono qui venuta per volontà di Dio per ricacciarvi corpo a corpo fuori da tutta la Francia. Il regno di Francia avrà il re Carlo, il legittimo erede. Se non volete, vi assaliremo a gran colpi e faremo un tal frastuono che da 1000 anni in Francia non se ne fece l'uguale. Duca di Bedford, la pulsella vi domanda e vi prega che non vi facciate distruggere. Naturalmente abbiamo visto come ne parlavano gli inglesi. Per far capire l'odio che provavano per lei, Addirittura il Michelet racconta che bruciarono una donna semplicemente perché aveva parlato bene di lei. La guardiana del faro. Invece dei piagnistei dell'8 marzo stavamo parlando di una grande disobbediente, Giovanna d'Arco. Ed ecco che lei va all'assalto di Orléans, va a liberare la città di Orléans. L'aveva detto ai pedanti di Poitiers che il suo segno sarebbe stato quello. E infatti gli inglesi sono sgominati. Tutto il popolo irrompe. Lei diventa la guida della Francia. Ed ecco che appunto il re sarà incoronato a Reims. E qui cominciano i guai. Mentre ci sono i suoi fedelissimi, ci sono anche i suoi odiatori. Perché i suoi successi hanno colpito l'orgoglio di tutti questi capi di armata e ministri del re che si sentivano umiliati di sottostare non solo a una donna ma anche a una povera contadina. Ma il suo nemico soprattutto diventerà il re. Il piano delle voci è perfetto e anche il piano di Giovanna, soltanto purtroppo quello che è sbagliato è l'oggetto dell'amore, come succede spesso nelle storie d'amore. La sua missione era perfetta, ma Carlo VII era un re inadeguato, quasi comico, vigliacchissimo. E la viltà, come si sa, si fa sempre pagare agli altri, in questo caso lo fa pagare a Giovanna. Lui non era nemmeno nato per regnare. Era il quarto, il quinto figlio di Savoia, di Carlo VI. Era il brutto della nidiata, il meno dotato. Era quello che era venuto peggio. E lui non pensava neanche ad essere figlio del re, dati i costumi di sua madre. È Giovanna che lo convince. E non era appunto nato neanche per essere il successore, soltanto che i suoi fratelli migliori di lui muoiono e indesideratamente si è ritrovato delfino. Le voci avevano detto a Giovanna «Ne crains rien», non aver paura di niente. Invece Carlo ha paura di tutto. E in questo momento lui ha paura che la pulzella sia diventata più popolare di lui. E infatti è così. Quando vanno con le loro armate a cavallo tra le ali di folla si sente molto più spesso dire «Jean» piuttosto che «Charles». E questo gli dà molto fastidio. Il motto delle voci che Giovanna fa suo è «Presto, in fretta». E infatti tutta la sua strategia è fondata sulla sorpresa. A questo punto loro cominciano a rallentarla. Lei probabilmente prenderebbe Parigi, anche se il primo assalto non è andato bene, però è capace di vincere la resistenza di Parigi, sarebbe capace. E comunque la strategia vittoriosa sarebbe quella di andare avanti nella guerra. Invece no, Carlo comincia ad accordarsi con i suoi nemici. Carlo comincia a vanificare le sue vittorie, comincia a rallentarla. Fino appunto quando a Compiègne viene catturata e tradita. E tra l'altro il re ha questa coda di paglia, come un marito traditore, più trama alle sue spalle e più la copre di ricchi doni. Ed è proprio allora, guardando queste sete e questi gioielli, che lei tristemente dirà: «Non temo che il tradimento». Ed eccola nelle mani dei suoi nemici. Ecco il processo. Questo processo aveva un solo scopo: intanto vendicarsi di Giovanna, ma questo, e soprattutto misconoscere la legittimità regale di Carlo VII, in quanto si era fatto aiutare da una strega. Ed ecco che si trova con questi bretoni, si trova con l'arcivescovo di Beauvais, il già citato Pierre Cochon, che la detesta. È un processo politico ed è un processo umano. Riassumiamo cosa ha fatto Giovanna fino adesso. Ha liberato Orléans, ha fatto consacrare il delfino Carlo Reims, è accorsa in aiuto di Compiègne, è stata catturata dai borgognoni ed essi consegnata agli inglesi. E poi nel 1431 si apre a Rouen, davanti al tribunale ecclesiastico, presieduto da Pierre Cochon, il processo in materia di fede, che la condurrà a rogo pochi mesi dopo. È sorprendente il senso del diritto che ha questa ragazza analfabeta. Le chiedono di recitare il Padre Nostro e lei dice: «No, io lo farò solo in confessione». Non vuole profanare la preghiera in un'aula di giustizia. Lei dice dall'inizio: «Io risponderò soltanto sulla materia che attiene al processo». lei è in prigione naturalmente, e Cochon le dice: vi si proibisce di allontanarvi dalla prigione di Rouen. Giovanna, non accetto alcuna proibizione. Se io evadessi, nessuno potrebbe accusarmi di aver mancato la mia parola, poiché non l'ho data a nessuno. E protesto per i ceppi e le catene, Cochon, e perché avete sempre cercato di evadere dalle altre prigioni. Giovanna, è vero, altre volte ho cercato di evadere, e anche ora lo vorrei. Ogni prigioniero ha il diritto di evadere. E poi dice a Cochon: badate voi, voi che vi dite mio giudice, badate ciò che fate, poiché io vengo da Dio e voi vi ponete in grave pericolo. Beaupère, un altro giudice, le chiede da chi venga la voce. Giovanna: la voce viene da Dio, ma io non vi dirò tutto. Temo più dispiacere ad essa che a voi. E le ricordano quando frate Riccardo, questo famosissimo frate con un grande seguito, che la credeva indemoniata e voleva esorcizzarla, e lei racconta: venendo verso di me, faceva il segno della croce e spargeva acqua benedetta. E io gli dissi: avvicinatevi senza timore, non mi dissolverò. C'è anche una soavità in queste sue risposte. E poi la tormentano ancora: perché vi vestite da uomo? E lei risponde: se dovevo armarmi per servire il delfino, dovevo avere vestiti adatti all'impresa, e fra gli uomini, vestita da uomo, avrei conservato la mia verginità di pensiero e di azione. E poi a volte le voci, le fa tutto quello che dicono le voci, ma non è poi così vero. Questa grande disobbediente disobbedisce anche alle voci. Le chiedono perché si sia buttata dalla torre di Beauvoir, dove era prigioniera. E lei risponde: avevo inteso dire che gli abitanti di Compiègne, al di sopra dei 7 anni, dovevano essere messi a ferro e fuoco, e preferivo morire piuttosto che vivere dopo una tale carneficina, e questa fu una ragione. Ma questo salto, sempre Cochon, lo faceste per consiglio delle voci? No, anzi, quasi ogni giorno Santa Caterina mi diceva di non saltare e che Dio mi avrebbe aiutata. E invece lei, questa volta, disobbedisce anche le voci, boom, e salta dalla torre di Beauvoir, tra l'altro rimanendo viva, altra cosa miracolosa. Sono così maliziosi, così lerci questi preti che la interrogano, che addirittura vogliono introdurre il demoniaco nel senso di sessuale nelle sue visioni, per cui insistono sull'apparizione di San Michele, che è un uomo, e le dicono: che aspetto aveva San Michele quando vi apparve? Dei suoi abiti non so nulla. Era forse nudo? Credete dunque che nostro Signore non abbia di che vestirlo? E poi questi insistono, ci tornano ancora su che aspetto avesse poi questo San Michele, si accaniscono, vogliono proprio sapere come era fatto San Michele. Come vi apparve San Michele? E lei alla fine dice: sotto l'aspetto di un gran galantuomo. E poi anche l'accusano di aver abbandonato padre e madre, e dice: lasciando la casa di vostro padre e vostra madre, non pensavate di commettere peccato? E lei risponde: poiché Dio l'ordinava, bisognava farlo. Poiché Dio l'ordinava, se avessi avuto anche 100 padri e 100 madri, fossi stata anche figlia di re, sarei partita ugualmente. E poi dice: ma adesso vi parlano, a parte quella risposta memorabile che ho citato all'inizio, cosa vi dissero le voci, di rispondervi arditamente, e le chiedono se le parlano adesso che in prigione le voci, e lei risponde: Santa Caterina mi risponde subito, ma a volte non riesco a udire nulla, a causa del chiasso delle prigioni e del vociare delle mie guardie. Una volta risponde: non otterrete risposta oggi. Le voci mi hanno detto di tenervi testa senza paura. So I chair them and I gaily left to think they could doubt my love. E poi la portano davanti al rogo. Cochon sta pronunciando la sentenza definitiva e lei ha 19 anni, è in piena salute, ama vivere. Ha paura, e prima che lui finisca di leggere la sentenza grida tutta legata com'è: no, io voglio osservare tutto ciò che i giudici della chiesa diranno e sentenzieranno, voglio obbedire in tutto e per tutto alla loro volontà, poiché gli uomini di chiesa dicono che le mie apparizioni e le mie rivelazioni non sono da sostenersi né da credersi, io non voglio sostenerle, io mi rimetto ai giudici e a nostra santa madre chiesa. E allora smontano il rogo. Non le tolgono le catene, perché la tengono in catene giorno e notte, però la riportano in prigione e la condannano alla prigione a vita, a pane e acqua. E questa è la biura. Smoke gets in your eye. Il giorno dopo lei come una furia, chiede di rivedere i suoi giudici e fa la biura della biura. Ha avuto questo momento di debolezza e lo rinnega immediatamente. E dice: ho udito le voci. Dio mi ha fatto dire, per bocca di Santa Caterina e di Santa Margherita, la gran vergogna per il tradimento cui mi ero abbassata, pronunciando la biura, e la ritrattazione per salvare la mia vita. Mi ha fatto dire che mi dannavo per salvare la mia vita. Se io dicessi che Dio non mi ha inviata, io mi salverei del rogo, però mi dannerei. È la verità. Dio mi ha inviata. Le mie voci mi hanno detto poi che avevo commesso un'azione ben trista, confessando di non aver agito in buona fede. Non pensavo così. Non ho inteso ritrattare le mie apparizioni. Tutto quello che ho fatto lo feci per paura del fuoco. E a parte questo piccolo cedimento, lei in nessun altro momento si farà intimidire dalla superiorità delle gerarchie ecclesiastiche. Non riconoscerà mai la loro autorità. In questo parlare direttamente con Dio, Giorgio Bernard Shaw, nella commedia dedicata a Giovanna d'Arco, la chiamerà antesignana del protestantesimo e primo martire protestante. Voltaire, nel suo poemetto La Pucelle d'Orléans, la derisa molto grossolanamente. Devo dire, fa male leggerlo. Mentre George Bernard Shaw immagina invece che lei, dopo 500 anni, pensi di resuscitare. E nessuno la vuole, nemmeno la Chiesa, che l'ha appena fatta santa nel 1920. E poi anche Anatole France, per fare l'originale, la definirà nel suo libro una beghina invasata. Mentre, come dice Michelet, il suo misticismo era infinitamente logico. Sarà bruciata come eretica, recidiva, apostata e demoniaca. Conclude Michelet il suo scritto su Giovanna dicendo: gli eletti sono quelli che vanno fino in fondo. Smoke gets in your... La guardiana del faro. E adesso, dopo Giovanna d'Arco, parliamo di un'altra donna sapiente, Ipazia, filosofa, matematica, astronoma, cattedratica nell'antica Accademia Platonica di Alessandria, che venne uccisa dai fanatici della prima chiesa cristiana. Io ho visto il film di Amenabar e l'ho trovato bruttissimo, perché è un film tutto esteriore e non soltanto. Io ho orrore dei crimini del fanatismo religioso di qualsiasi religione, non esclusa quella cristiana. Però Amenabar mi ha disgustato in certe scene, perché quando i cristiani vengono inquadrati dall'alto, vestiti di nero, e volutamente sembra una ridda di topi. Il film è grossolano, privo di emozioni. E poi, per fortuna, in quei giorni era proprio uscito il libro di Silvia Ronchey, Ipazia, pubblicato da Rizzoli, ed è stata veramente una grande gioia, perché finalmente ho potuto avere un'idea. Mi piacerebbe molto sentire Silvia Ronchey, questa ragazza elfo, questa illustre bizantinologa e scrittrice spiritosissima, devo dire. Mi era piaciuto molto anche Il guscio della tartaruga, che aveva scritto per Nottetempo. Posso parlare con Silvia Ronchey? Pronto, pronto Silvia? Ciao Barbara. Senti Silvia, ci parli un po' per favore, perché abbiamo esordito dicendo che basta coi piagnistei per l'8 marzo. Parliamo di donne che ci piacciono molto. E allora Silvia, ci parli di Ipazia? Sei stata onestissima nel libro, non hai romanzato, eppure hai fatto un romanzo molto più affascinante che inventando, riferendoti ai documenti, riferendoti alla realtà. Ci racconti della tua Ipazia? Sì, perché la realtà è sempre più folle, stramba e pittoresca e letteraria di qualsiasi invenzione letteraria, questa è la verità. Ipazia era, da un lato, era una grandissima intellettuale e una filosofa, e questo fa parte di una tradizione femminile consolidata non solo nel platonismo antico, ma nelle varie correnti filosofiche greche, classiche, poi romane, non ci deve stupire, ci stupisce oggi, perché dopo appunto tanti secoli di repressione dell'intelligenza femminile, per cui la sola letteratura che noi ci ritroviamo fantastica di lingua femminile di fatto è quella delle mistiche, no? È presente, cioè da Caterina, Hildegarda di Bingen a, che so, Teresa e via discorrendo. Invece c'era un'intelligenza e una letteratura in cui la figura di Ipazia si colloca, lei era una portatrice di fiaccola all'interno di questo filone. Era un'intellettuale, una filosofa, conosceva Platone, Aristotele, ci dicono le fonti, li insegnava, ma aveva anche una sua caratteristica, chiamiamola così, sacerdotale, cioè quello che si scontra tra, diciamo, Cirillo, il cattivissimo vescovo, che tra l'altro tuttora, questo è uno scandalo, è santo. Sì, è sul calendario ce lo troviamo, questo delinquente. Cioè, sì. Lo dobbiamo tirare, ma almeno tirar fuori dal calendario, voglio dire, tirar fuori dal sinassario, perché questo è un assassino provatamente tale, cioè c'è una, non so come dire, una giuria e un tribunale che viene allestito dalla storia, dalla storiografia, e che non è soltanto adesso, scrivendo il libro, che io ho potuto trovare queste cose, si sanno, soltanto nel senso che questo tribunale l'aveva già condannato ai tempi bizantini, soltanto che più passa il tempo e più la censura in qualche modo cresce di importanza e di potere, tanto che se uno apre una qualsiasi enciclopedia cattolica, proprio nel migliore dei casi trova che Ipazia è morta in tumulti di piazza. E comunque l'idea che ci sia un mandante, come tutte le fonti anche cristiane contemporanee ci dicono, che è questo giovane, probabilmente coetaneo se non più giovane di Ipazia, vescovo Cirillo, che era un delinquente obiettivamente, era un vero fanatico eccetera, e questa cosa non viene mai fuori. Ci dice qualcosa di Ipazia, di personale? Guarda, Ipazia era figlia di un grande intellettuale, forse anche più noto di lei nel mondo, sia tra i suoi contemporanei sia dopo, perché ha lasciato degli scritti, tanti scritti, scritti che ci parlano di matematica, di astronomia, ma anche un po' inquietanti, tipo su come interpretare le grida dei corvi, non so, ecco, cioè era quindi certamente un filosofo, un astronomo, ma era anche un astrologo e aveva anche questa dimensione esoterica e iniziatica, teurgica si dice in termini così tecnici, che aveva tutto l'insegnamento neoplatonico, che poi era anche neopitagorico eccetera, nella tarda antichità, che non rifiutava l'elemento cristiano, anzi l'elemento cristiano come dire, partecipava, quindi insomma questo insegnamento esoterico del platonismo era un insegnamento universale che inglobava, che includeva questa caratteristica inclusiva, accudente, non saprei come dire, morbida, tollerante, indulgente da un certo punto di vista, anche se Ipazia era durissima, tostissima, e questo era ciò che faceva, quindi era un insegnamento ecclesiastico, assembleare, inclusivo, ecumenico, che infatti era amato anche dalla componente cristiana. Ipazia aveva questa dolcezza, questa grazia, ma era durissima. Si parla, quando si racconta nelle fonti, sia pagane sia cristiane, di lei, che si trovava molto spesso a essere la sola donna in una assemblea di soli uomini, parlando, ripeto, soprattutto di politica, perché era una grande consigliera del prefetto Augusto Aleoreste. E però questi non soltanto così non la sottovalutavano, ma dice che provavano una sorta di timore sacrale, reverenziale, si stavano zitti, si inzittivano a sentirla parlare, perché parlava benissimo, questo ci viene detto, perché parlava con una parresia, con una capacità di dire le cose in faccia, e questa è una delle sue caratteristiche, diciamo, di formazione e caratteriali. Poi dobbiamo immaginarla appunto non una maestrina, non un insegnante di college, ma ripeto, avvolta da una sorta di carisma sacerdotale. Era completamente asessuata quando si trattava di officiare questa sua vocazione sacerdotale, che ripeto era una vocazione sacerdotale in senso laico, la tradizione ellenica, cioè questa tradizione di combinazione e compattazione, inclusione di culti, per cui poteva essere incluso anche quello cristiano, ma non aveva perciò un minor valore sacrale, quindi abbiamo due elementi, era una tosta che faceva impallidire, tremare i potenti e comunque i politici e comunque i maschi, che aveva grande libertà di parola, che diceva sempre la sua, il cui giudizio era seguito e che aveva dei risvolti pratici, politici, di grande lucidità, incisività e tempismo, ma era anche una figura virginale, tra virgolette, asessuata e sacerdotale, officiante, poi era una figlia di papà che però poco aveva tratto, perché non ha mai pubblicato nulla, è più probabile che ci siano scritti di Ipazia nascosti sotto la firma di Teone, di suo padre Teone, che di quanto non sia probabile il contrario, ma è anche probabile che abbia deciso di dedicare alla prassi, che sia appunto prassi politica o prassi dell'insegnamento, prassi di una vita estremamente etica, piuttosto che agli scritti, la sua sapienza, il suo sapere, che era ovviamente sterminato. In questo è molto simpatica e è molto bizantina, perché siamo già in epoca bizantina, questa mania di scrivere a tutti i costi, cioè quello che conta è vivere all'altezza di quello che gli altri hanno scritto. Qui capitaneria di porto. Interrompiamo Barbara Alberti che parla dal faro di Finisterre. L'energia a disposizione è esaurita. Riattiveremo il collegamento tra una settimana. La Guardiana del Faro è un programma di Barbara Alberti, ideato da Gianluca Nicoletti. Realizzazione tecnica di Alessandro Chiappini, a cura di Gloria Guerrera.